noi abbiamo un sistema di aziende nel campo delle multi-utility articolato in due fasce, entrambe sono esposte a una criticità. Ci sono poche aziende di media dimensione, come ERA, ACEA, A2A, IREN, queste quattro, che sono aziende corpose, significative, con bilanci robusti, quindi aziende importanti, che però se le confrontiamo col mercato rischiano di essere a questo punto troppo grandi per essere piccole, troppo piccole per essere grandi. Quindi c'è il problema del salto di qualità. Poi c'è una seconda fascia, che è quella secondo me più a rischio, che è tantissime aziende di servizi pubblici di tipo locale, al 100% pubbliche o con un apporto di capitale privato, ma in genere non significativo, che secondo me rischiano, diciamo, non solo ogni giorno, ma sono spesso finanziarie critiche. Allora, penso che occorra in tutto il campo dei servizi una strategia che si misuri con la necessità di dare alle aziende dimensioni di scala in grado di reggere il mercato.